Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Questo è Shuffle, scattini Polaroid in riproduzione casuale. Sostiene la Bibbia di Las Vegas, là dove tutto è consentito fuorché parlarne altrove, che esistono solo 8 modi di mescolare le carte. Overhand, sovrapponendo piccoli mazzetti da destra a sinistra, tipico dei vecchi della briscola. Riffle, il karate dei biscazzieri, separando il mazzo in due e lasciando scivolare una sull'altra le carte come ventagli. Hindu, la mossa del Qatar. Antica tecnica tramandata da remote tribù del Gange che prevede la cascata del mazzo da una mano all'altra. Pile, con le carte divise semplicemente in mucchietti e poi ricomposte in ordine casuale. Corgi, o all'irlandese, spargendo le carte sul tavolo e rimescolandole come l'impasto della pizza. Mongean, un complesso modello matematico che consente di raggiungere il livello Super Saiyan della randomizzazione attraverso 12 miscelazioni consecutive. Faro, la skill degli illusionisti, che consente di mescolare le carte decidendone in anticipo la sequenza. E infine, la spirale messicana. Una carta sopra e una carta sotto, inventata alla fine del 1800 per proteggersi dai bari di Tijuana, che cercavano il colpo grosso sui battelli del Mississippi. Ognuna di queste tecniche ha l'obiettivo di resettare il mazzo per creare una nuova partita, miscelando le figure note per dare vita ad un risultato inaspettato. Gli inglesi la chiamano shuffle, mescolanza. La linea casuale che abbiamo scelto per ridisegnare Polaroid. Fate il vostro gioco. Rien ne va più. Shuffle. Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. 1977. Brooklyn. Anthony, detto Tony, cammina sulla sponda italiana di Fulton Street. Sull'altra sponda ondeggiano i fottuti barracudas portorichi con le loro bandane colorate, le catene al collo e le fichette col culone. Anthony, detto Tony, però, vuole una fichetta italiana, roba di prima scelta, vestiti firmati e zip code di Manhattan. E c'è solo un posto dove rimorchiarne una così. Il 2001 Odyssey. Anthony, detto Tony, ha la camicia giusta, gli occhiali giusti, le scarpe giuste. È sabato sera, è tempo di ballare. Ma che c'hai oggi, eh? Se non fossi al verde stasera mi piacerebbe andare al 2001. E vabbè, allora vacci. Ma che cazzo dici? Ci vogliono 20 o 30 dollari? Perché tu ce li hai $30 da spendere? E dai, Tony. Ma che ti incazzi pure? Time's up.

Vaffanculo anche a voi! 1984, Beverly Hills. Inizia tutto con una risata, come la creazione del mondo ad opera di un dio buffone. La più complessa e spontanea delle reazioni umane genera il mito di Eddie Murphy. Axel Foley è il poliziotto senza regole. Tonino accolla la voce che lo rende vivo. Le birre sono... attenti ragazzi, il bordo è molto scivoloso. Dicevo, le birre sono nel frigorifero. Se volete laggiù c'è anche il bar, potete farvi un martini. No, un momento, voi siete in servizio, niente martini per voi. Fatevi una bella minerale con ghiaccio, ok? Ho trovato dei costumi per voi in una camera. Fatevi un tuffo, avanti, in piscina, vi voglio nudi. Ci farai finire tutti e due nella merda. Mi piaci quando dici le parolacce. Perché non entri e ti rinfreschi un po' il culetto? Axel, esci da questa maledetta piscina. Te l'avevo detto che il bordo era scivoloso. Puoi dividerlo in due come una poltrona, il giorno della vigilia di Natale. Io ci vedo! E ho anche le gambe io! Oddio, guardate, ho due gambe! Riesco a camminare, Gesù! Miracolo, Gesù! Grazie, grazie, che bello! Non ci posso credere, grazie! Non ci posso credere io! Puoi metterlo al posto di Dio, anche soltanto per una settimana. Ma tu chi sei? Bruce, io sono Dio. Bingo! Yazzi! E questa è la risposta finale? La nostra indagine dice... Dio! Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Beh, è stato un piacere, Dio. Grazie per il Grand Canyon e buona fortuna per l'Apocalisse. Ah, a proposito, tu sei un disastro! Puoi dargli una vita da detective, al servizio degli animali. Questi sono doppi vetri a isolamento acustico. È impossibile che la vicina possa aver sentito l'urlo di Potactor durante la caduta attraverso la finestra chiusa. L'urlo che ha sentito proveniva dall'interno dell'appartamento, prima che qualcuno lo buttasse di sotto, e l'omicida ha chiuso la finestra prima di andarsene. Sì! Sì! Oh, sì! Ti piace così, amore? Esorcizzato il demonio! Questa casa è ripulita. Perdenti. Buttatelo fuori di qui! Perdenti! Andiamo, Ace. O ficcarlo in una cenciosa città disegnata che prende per il culo la fottuta provincia americana. Lisa, sono io, papà tuo. Ho radunato tutti i Simpson di tre città e ti posso comprovare che non c'è nulla di storto nei geni Simpson. Non importa dove lo metti e cosa gli fai fare, lui troverà il modo di rendersi unico, personale, inimitabile. Perfino se gli metti gli abiti di Mickey Rourke e gli fai scopare la bionda Kim Basinger. Per 9 settimane e mezzo. Elizabeth, adesso faremo un giochino. Purtroppo io ho un piccolo problema. Perché, vedi, non riesco ad eccitarmi. Non riesco ad eccitarmi e allo stesso tempo ti vedo con le mani e le ginocchia per terra, che cammini carponi. Sono disposto a pagare molto per vedertelo fare. Lo faresti per me? Sanremo 1989, 39esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Presentano i figli di genitori celebri: Celentano, Queen, Tognazzi, Bosè. Vincono Oxa e Leali, come già si sapeva. Giovanotti canta No Vasco, io non ci casco e fa il 75% di share, come già si sapeva. Unico imprevisto, il monologo di Beppe Grillo, che si becca una scomunica e una denuncia, facendo quello che sa fare meglio, il comico. Perché una battuta sui socialisti, voi capite che... No, poi se non la faccio magari pensano che ce l'abbia con loro, sai, abbiate pazienza. Abbiate pazienza, scusa. È il Festival del Disimpegno, che chiude il decennio del grano per tutti. Del pensiero rivolto all'accessorio, al presente, al consumo. Ma alla posizione numero 15 della serata finale c'è già qualcuno che guarda indietro e comincia a chiedersi cosa sta per finire. Cosa abbiamo vissuto? Cosa resterà di questi anni 80? Anni come giorni sono volati via. Brevi fotogrammi o treni in galleria. È un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più. È un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà? Yeah. 1985, Chicago. Ma sono ricco, vero? Marty, ti prego, togliti la camicia, mettiti la giacca e le scarpe. Autolacci, fantastico. La giovane guardia dei Bulls è soltanto un rookie, un debuttante, ma l'azienda col baffo gli ha già piantato gli occhi addosso, convinta che un giorno diverrà The GOAT, il più grande di ogni tempo. Solo che a Michael Jordan le Nike fanno schifo. Gli sembrano le scarpe del diavolo, dice, e poi hanno la suola troppo alta per sentire il parquet. Ma la dea della vittoria non è una che si arrende. Il suo motto è Just Do It, le ultime parole famose di Gary Mark Gilmore, un serial killer dell'Oregon. Fallo e basta. E la Nike lo fa. Air Jordans from Nike. Progetta un paio di scarpe su misura per MJ, lima la suola e le chiama Air, come la strada che il campione dei Bulls percorre quando salta. Rosse e nere, con lo swoosh su un fianco, il pallone alato che presto sarà sostituito con la sagoma dello stesso Michael Jordan mentre schiaccia con le gambe divaricate. Il Jumpman, simbolo universale del basket nel mondo. L'anno dopo MJ si rompe la caviglia, i Bulls perdono 64 partite e quando rientra in campo sulle sue Nike compaiono un paio di cinghie di rinforzo per tenere fermo il piede. Al Boston Garden i Celtics di Larry Bird fanno 3-0, ma il numero 23 segna 63 punti, record assoluto dei playoff NBA. Celtics to take a 2-0 lead over Chicago in their best of five. On Miller Lite, most valuable player of the game is Michael Jordan with an all-time record 63 points in a single playoff game. E le Nike Air nei negozi schizzano da 65 a 100 dollari in meno di 24 ore. Il sodalizio tra Nike e Michael Jordan cambia la storia dello sport, ma per diventare leggenda c'è bisogno di un altro MJ, uno col mocassino Floorshine. Stop. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. Polaroid Shuffle torna fra poco. Torna fra poco. Per un altro scatto scelto dal caso. Questo è Shuffle. Riproduzione casuale di scatti in formato Polaroid. 1993, North Carolina. Prima di raccontare una storia, facciamo un gioco. Che canzone è questa? Giusto, ma è Sharona. E questa? Esatto, Video Killed the Radio Star. E quest'altra? Be happy. Don't worry, be happy. Indovinato, Don't Worry, Be Happy. Ma se ora vi chiedessi, cosa sapete dei The Knack, dei The Bagels o di Bobby McFerrin? Niente. Un cazzo di niente. In America li chiamano One Hit Wonder, entità che raggiungono istantaneamente il successo grazie ad una canzone e poi spariscono nel nulla, per sempre. In Italia le chiameremmo meteore ed una di loro è caduta appunto nel North Carolina, lì dove era decollata nel 1993. Il suo nome era The Connells, la band trapassata alla storia per un album di fotografie scolastiche della classe 74-75, 74-75 e poi di nuovo zero. cosa assurda è che è vero. La forza, i Jedi, tutto è tutto vero. Episodio 7, il risveglio della forza. 2015, Londra. Daisy ha 18 anni e vuole diventare una zoologa. Solo che a scuola fa schifo. Così, i suoi genitori la iscrivono ad un corso di teatro per tenerla impegnata e lontana da droghe e cattive compagnie. Sperano, in cuor loro, che diventi famosa come lo zio, Arnold Riley, star della TV britannica. Ma Daisy non va al di là di qualche piccolo ruolo in qualche infima produzione. Poi un giorno arriva in città J.J. Abrams, il regista di Mission Impossible. Cerca una faccia nuova, una ragazza della porta accanto, un volto pulito di cui innamorarsi, forte e vulnerabile allo stesso tempo. Qualcuno che ti sembra di conoscere già, anche se non ricordi dove, quando e come. Daisy si presenta al casting. Porta la scena in cui Kylo Ren cerca di entrare nella mente di Rey. Lo so che hai visto la mappa e ora la darai a me. Tu hai paura di non diventare mai forte quanto Darth Vader. No. È potente, tenace, disperata. Piange. J.J. Abrams le chiede di ripetere ancora la performance. E ancora. E ancora. Per 13 volte. E Daisy lo fa. Piange, urla, si ribella. Ogni singola volta, perché la forza di Rey scorre potente in lei. E a pensarci bene, anche in Bruno Mars. Hallelujah, girl said you hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you. Uptown funk you up. I said uptown funk.